Montecitorio e dintorni. Di Elisabetta Fiorito. Buongiorno, per questa puntata di Montecitorio e dintorni abbiamo con noi Daniele Capezzone, PDL, neoeletto presidente alla Commissione Finanze della Camera. Buongiorno Capezzone. Buongiorno, buona mattina. Allora, cosa succede con l'IMU? Perché la Commissione Finanze è quella che si occupa poi di reperire le risorse per poter poi sgravare un po' il peso del fisco. Il PDL ha sempre detto che bisogna cancellarla totalmente, però si va verso di fatto uno stop a giugno, un rinvio di rimodulazione a settembre. Noi naturalmente attendiamo le decisioni del governo. Per ciò che riguarda politicamente il Popolo della Libertà, l'obiettivo è chiaro. Numero uno, gli italiani non devono pagare a giugno l'IMU sulla prima casa. Numero due, non devono pagarlo più neanche a settembre. Quindi il tempo da qui a settembre va utilizzato per cancellare questa tassa odiosa. E badate bene, questo non lo diciamo per un puntiglio politico, perché questo è un nostro punto di campagna elettorale, ma lo diciamo come considerazione di fondo per rilanciare i consumi e la domanda interna. Forse qualcuno non ha ancora compreso che la domanda interna è stata fermata non solo dalla crisi complessiva, ma è stato aggravato il calo della domanda interna dal fatto che nel dicembre scorso le tredicesime degli italiani sono state prosciugate dall'IMU e questo ha fatto crollare i consumi interni. Noi dobbiamo evitare che a dicembre 2013 l'episodio si ripeta con la doppietta saldo IMU e TARES. Però Raffaele Bonanni della CISL dice: ah, ma tutta questa polemica sulle tasse non è proprio una priorità, perché la cosa importante è la cassa integrazione in deroga, sappiamo che c'è una scadenza, più che il taglio dell'IMU. No, ma le due cose non sono in contraddizione, le due cose vanno insieme, anzi le dirò di più. Noi abbiamo bisogno di uno shock positivo per l'economia italiana e questo shock positivo si realizza da un lato mettendo in sicurezza gli ammortizzatori sociali, e ci verrò tra poco, dall'altro lato con un avvio di alleggerimento fiscale per tutti, per le famiglie, togliendo l'IMU. Per i lavoratori, riducendo piano piano il costo del lavoro e io credo anche detassando le nuove assunzioni, questa è la nostra impostazione, che è l'unica via per creare nuovi posti di lavoro. E poi anche verso le imprese, noi come PDL riteniamo che in questi anni debba scendere quell'altra tassa odiosa sulle imprese che è l'IRAP. Noi dobbiamo dare respiro a tutti, alle famiglie, alle imprese, ai lavoratori. Come si fa? Naturalmente occorre avviare un piano di tagli vero alla spesa pubblica. Numero uno, occorre riprendere la vera spending review, la più efficace, che era quella avviata dal governo Berlusconi attraverso i costi standard nella sanità. Questa sarebbe una rivoluzione. Due, tagli veri alla spesa pubblica. Noi abbiamo proposto un taglio per la legislatura del 2% l'anno di spesa pubblica per 5 anni. Ogni anno l'Italia spende 800 miliardi l'anno di spesa pubblica, tagliare il 2% ogni anno significa avere 16 miliardi l'anno, in 5 anni vuol dire 80 miliardi. Con questa massa di denaro risparmiato noi possiamo fare corrispondenti tagli fiscali e dare respiro a tutti. Dove li prendete? Cioè dove tagliate? Perché qui il problema è, non è la spending review, siamo tutti d'accordo. No, guardi, c'è solo l'imbarazzo della scelta. Io le ho fatto un primo esempio strutturale che riguarda l'intervento con i costi standard nella sanità. Dopodiché alzi la mano chi ritiene che su 800 miliardi l'anno di spesa pubblica non sia possibile fare un taglio corrispondente a 4 miliardi sull'IMU sulla prima casa. Cioè non scherziamo, qui stiamo parlando di un 2 centesimo della spesa pubblica annuale. Noi abbiamo una serie di voci che vanno colpite. Questo deve essere molto chiaro. Io sono totalmente d'accordo con le impostazioni di Mario Draghi, che da anni in sintonia con noi dice: attenzione, questo riguarda l'Italia, ma riguarda complessivamente il modello sociale europeo, perché è troppo orientato su un binomio sbagliato che è spesa alta, tasse alte. Noi dobbiamo ridurre la spesa, ridurre le tasse, solo così diamo respiro all'economia. Se non si entra in quest'ordine di idee e se invece ognuno continua a difendere il proprio orticello, noi resteremo con spesa alta, con tasse alte e anche le operazioni più piccole diventano complicate. Colgo il punto che lei mi diceva sulla cassa integrazione, le faccio un esempio. Ora, sembra quasi che sia difficile un rifinanziamento di circa 1 miliardo, le do un esempio, il governo Berlusconi dal 2008 al 2011 ha rifinanziato ammortizzatori sociali per 37 miliardi, un'operazione 37 volte più grande. Non è che ora l'Italia può avere ogni volta un problema anche per interventi doverosi ma piccoli. Per esempio, questa è una delle battaglie di Beppe Grillo, no? E la battaglia principe è tagliare i costi della politica. Ora gli italiani sono al 99,9% d'accordo. Ecco, questa lei come la vede? Tanto, come dire, non so quali siano le battaglie sui temi economici di Beppe Grillo, su cui mi pare che lui e Casaleggio abbiano le idee molto confuse. Sui costi della politica è stata la nostra l'impostazione più ambiziosa in campagna elettorale, con un taglio alle indennità dei parlamentari, con un taglio ai finanziamenti pubblici, con tutta una serie di interventi sui quali io sono non d'accordo, stra d'accordo, e su cui si può lavorare tutti insieme. Però anche su questo siamo chiari, sui tagli ai costi della politica siamo tutti d'accordo, si è cominciato e si deve fare di più, ma non è questo l'ordine di grandezza necessario per gli interventi che dicevo. L'ordine di grandezza necessario è quello, le ripeto, del 2% l'anno in 5 anni sugli 800 miliardi di spesa pubblica. Se cioè poi, non è tagliare aspetti, lo stipendio a 1000 parlamentari che risolve la questione, questo ci sta dicendo. Va fatto. Si è già fatto nella scorsa legislatura un intervento importante di dimezzamento del finanziamento pubblico ai partiti. Tutto quello che si può fare in questa direzione è cosa buona e giusta, ma stiamo parlando di somme piccole rispetto al monte necessario. Detto questo, se poi lei vuole la mia opinione personale, in questo caso è solo una mia opinione personale, un altro capitolo che va affrontato, ma ripeto, non è cosa di domani mattina, è un discorso strategico. C'è anche il tema della dismissione di parte del patrimonio pubblico. Io comincerei dal patrimonio immobiliare. Però questo va a gravare sul debito. Questo è per il debito, non è per il deficit. Ma è una grande... No, attenzione, vale sul debito, ma siccome fungerebbe anche da scudo di protezione dell'Italia, avrebbe anche un grande valore anti-spread e un grande valore di calo degli interessi annuali sul debito, quindi ha un valore sia sul debito e sia anche sul flusso annuale. Ecco, un'altra cosa che il PDL si accinge a fare è la manifestazione di Brescia. Voi continuate a manifestare perché dite che i giudici sono dei giudici contro Silvio Berlusconi politicizzati, almeno una parte della magistratura, giusto? La manifestazione di Brescia non è convocata su questo tema, la manifestazione di Brescia è convocata per un discorso politico complessivo di Silvio Berlusconi sul governo, al quale confermiamo il nostro sostegno, sui temi economici, sui nostri impegni fiscali e quindi sull'IMU, sull'IVA che non deve aumentare, sulla detassazione delle nuove assunzioni, su Equitalia che va riformata, sulla sburocratizzazione e quindi sul passaggio dalle autorizzazioni preventive ai controlli ex post. Naturalmente ci sarà anche una parte sulla riforma complessiva della giustizia. Quanto all'azione di una parte della magistratura, anche i ciechi vedono che c'è una parte della magistratura che agisce in modo ossessivo nei confronti di Silvio Berlusconi, ma questo l'hanno capito proprio tutti. Ringraziamo allora Daniele Capezzone, neoeletto presidente della Commissione Finanze della Camera, PDL, buon lavoro. Buon lavoro.